Allora, per chi non avesse capito dai simboli ovvi, questo è un reading natalizio, ma questo non significa che verranno lette solo poesie dal tema natalizio, perché... Tema natalizio. Sono poesie natalizio. Allora, questo è un reading natalizio, il che vuol dire che verranno lette solo poesie in tema natalizio. Chi non le ha le scrive adesso, altrimenti verrà interrogato da solo poi alla cattedra. Lo sciopero. Vabbè, allora inizio. Ognuno gli dà l'interpretazione che meglio gli pare. E fa il presentatore. Faccio il presepe vivente. Allora, bravo presentatore. Inizio uno. Sì, breve. Se tolgo i passi devo scendere dal palco. Ma non ti attaccare. No, no. Lo vedi come? Ah, il pubblico ha avuto un simpatico volantino con cui poi alla fine possiamo fare un coro natalizio come bei vecchi tempi. Non ti attaccare al microfono. E te sei arrivato dopo, devo fare prestare al compagno di banco. Allora, inizierò con una poesia che ho scritto oggi pomeriggio, che quindi, siccome è scritta appena, la leggo anche male, vi dovete accontentare. Questa esprime il mio amore per il Natale e tutta la cristianità che esso sottintende. Sono partiti. Auguri. Grazie. Il 25 dicembre è il compleanno di Gesù, ma i regali lui non li becca più, anche perché con 2000 anni sul groppone gli potrebbe servire giusto un pannolone. È buffo festeggiare la nascita di un pazzo in una data che poi non c'entra un cazzo, messa lì da sti scemi dei cristiani al posto dei saturnali dei romani, solamente per rompere i coglioni e dir che siamo tutti un po' più buoni. Ma buoni di che? Buoni del tesoro, buoni pasto o forse buoni a nulla? Ma perché il bue non ci ha cagato nella culla? E poteva quell'asino dell'asinello ciancicare per bene il bambinello? Almeno oggi non ci sarebbero ste consuetudini di invadere le strade in moltitudini, sfoderando sorrisi un po' prefabbricati per salutare chi non si è mai cagati. Diciamo basta a consumismo e ipocrisia e smettiamola col pranzo dalla nonna e la cena dalla zia. E ricordiamoci che Natale, quello vero, che dovrebbe festeggiare il mondo intero, non è quello che si colloca a dicembre. Il Natale giusto è il 27 di novembre. Compleanno mio. Grazie. C'è una persona niente. Credo che vi è piaciuta. Andrò avanti con... Grazie. È bello essere tre amici che si stimano. Questo dell'altro anno è una saga praticamente e narra delle abitudini natalizie su un lontano pianeta al di fuori della nostra galassia, Natale sul pianeta Sglops. Ecco. I meteoriti. In un remoto angolo di un universo parallelo si trova il pianeta Sglops. Il pianeta Sglops è composto di antimateria, antiprotoni, antineutroni, antielettroni. Gli abitanti sono tutti antipatici e fanno tutti gli antiquari. Sul pianeta Sglops gli anni si contano a ritroso e oggi siamo alle soglie del meno 2000, questo è dell'altro anno, e tutti temono il Millennium Buggy, una sorta di June Buggy con cilindrata 1000 che investe tutti i computer a marcia indietro. Anche sul pianeta Sglops si festeggia il Natale e si seguono precise tradizioni, regolate dalle severe leggi del pianeta. Innanzitutto, a Natale è vietato avere parenti e chiunque scopra di avere una zia o qualche nipote deve fingere di non riconoscerli fino a Natale successivo, quando questa legge rientra in vigore. Chiunque viene sorpreso a pronunciare frasi tipo Natale con i tuoi viene lapidato sul posto a colpi di agnapi. Gli agnapi sono tipo i sanpietrini terrestri, solo pesano 4 tonnellate ciascuno. Inoltre, pur non essendo vietato fare regali, è assolutamente proibito riceverne. Per cui se uno si vede donare qualcosa, è d'uso rispondere con la frase di prammatica: no grazie, ficcatelo al culo. I giochi che tipicamente si fanno a Sglops quando viene Natale sono la tombola di Sglops con 90 numeri, ma tutti uguali, così quando esce il primo il gioco è finito. Il 7 e mezzo, che si gioca fra le 7.29 e le 7.31. Testa o croce, in cui si lancia in aria una moneta e se viene croce se ne allestisce una lì e ci si inchioda il perdente. Su Sglops a Natale è tipico mangiare il gasalione ripieno. Il gasalione è un animale enorme, ha la coda a quadretti e tre zampe destre, ma è invisibile. Nel catturarlo bisogna fare attenzione a distinguerlo dal prenacarpo, che è velenoso. Anch'esso la coda a quadretti, è invisibile, ha tre zampe destre, però è mancino. Su Sglop si allestiscono tipici decorazioni natalizie. La palla con gli alberi attaccati, le luci intermittenti che compongono la scritta Skimmordzz e il tradizionale post sepe, composto da una capanna vuota, una mangiatoia vuota e tutte le statuine sono prelevate per essere messe negli Happy Meals di McDonald's di Sglops, dove sono servite le tipiche hamburger di bue e asinello. Su Sglops è tradizione alla mezzanotte, che per comodità cade verso le 10:30 del mattino, andare tutti al cinema, dove viene proiettato tutti gli anni lo stesso documentario dal titolo La vigilia di Natale sulla Terra a Via Cola di Rienzo verso le 13. E nel vedere le scene, alcuni ridono, molti piangono e tutti, proprio tutti, sono contenti di essere abitanti del pianeta Sglops. Grazie. Grazie. E volete altre 16? No. Allora altre 18. No. E quella di Natale? Quale? Notte magica, forse volete sapere. Sì, bambino. Questa, in fondo dovete immaginare un bambino che parla con la mamma, in questa atmosfera tipica della notte di Natale. Un signore grasso grasso col vestito tutto rosso è entrato di soppiatto dal camino del salotto. Con la barba bianca bianca e il cappello un po' bislacco, sulla schiena lui recava, son sicuro, un grosso sacco. Girava per la casa con fervore, ma lieve e soffice, senza far rumore. Poi col suo sacco ancora sulla schiena, se n'è andato come volando nella luna piena. Beh, mamma, dimmi, chi vidi in questa notte sì speciale? Beh, mamma, era forse lui, Babbo Natale? No, testa di cazzo d'un rincoglionito, era un ladro che ci ha ripulito. Visto che vi è piaciuta, ce l'ho solo di carnevale. Vediamo un po'. Vorrei un volontario. Vuoi fare volontario? De Pasqua ce l'hai? Vuoi fare volontario? Dai. Voglio De Pasqua. Serve... Domenico? Mi serve un volontario. Voglio una di Ferragosto, certo. Vorrei un volontario, Stefano. Dai, chiudiamo con una tipica sceneggiata natalizia. Perché io non vedo che voi fate, ah, ecco proprio. Va bene, fai invita, io quello. Allora, questo c'è un titolo proprio originale. Natale in casa Cupiello, ispirata al film Non aprire quella porta. Usate il nostro linguaggio un po' così. Oh Gesù, Gesù! Oh Gesù, Gesù, Gesù! Oh Gesù, Gesù, Gesù, Gesù! Ui, papà, che te ne fa parte della scena oppure ride così? Ricominciamo. Che tenghe? Tengo la voglia di scassarti a capo, figlio del cenere, che te ne stai in coppa ulez, mentre di là c'è sta Natale. Papà, papà, che dite? Lo sanno tutti che a dicembre ci sta Natale. Oh Gesù, Gesù, Maronna, Maronna, Gesù e Maronna, Che figlio che tengo! Chiudete! E vieni a vedere che in casa nostra è trasita Natale! Natale? Chi è stata? Statale. Statale? E non lo so chi è statale. Io sono disoccupato. E ringoglionito. Già me papà facite. Ma Giamme papà, facitemi vedere a tuo statale. Vieni a casa, guarda, guarda. Ti piace Natale? Ma piace, assai. E allora, sai che ti dico? Facimme Natale! E facimme Natale! I cupiello si avventarono sul Natale, girarono il foglio e videro che c'è scritto, la violentarono, la squartarono, la mangiarono e furono felici come Pasqua. Grazie. A questo punto lascerei il microfono direttamente al resumo. Dai, c'è che sei qua, c'è qui. Bravo. Happy Christmas. Happy Christmas for everybody people. For you, Chinese woman. For you, Indian children. For you, African men Zulu. For you, English dog. For you, Russian insalad. For you, Italian style. For you, French kissing. For you, my brother, sister, daddy, mom. For you, my uncles, Gino, Nino, Pino, and Katia, Nadia, and Lydia. The Christmas is here, and I am very happy. And now, for my public, happy Christmas, happy New Year, and with my big heart, happy thank you. Se oggi credessi a Babbo Natale, sarei più felice. Felice come quando avevo le ginocchia ferite. Felice come quando riuscivo a fare 2 più 2. Felice come quando chiamavo mia madre e mi facevo tirare per merenda pane e sugo dalla finestra. Felice e sugo. Felice come quando il flipper costava 50 lire una partita con 5 palle e si vinceva 1000 punti. Felice come quando riuscivo con la fionda a tagliare di netto la testa delle lucertole. Felice come quando mi mettevo il completino attillato privo di lampo, color verde bosco, e giravo con la bici gialla a Bocross. Felice come quando leggevo promosso. Felice come quando prendevo 5,5 nel compito in classe di italiano. Felice come quando uscivo la mattina fresca d'estate alle 9:30 tutti giù e giocavo fino a 3 partite al giorno. Felice come quando facevo a lotta con Fernanda nella cantina della tintoria della madre di Riccardo. Felice come quando sentivi i dischi di Tom Holiday e Sylvie Vartan. Felice come quando piangevo mentre guardavo Love Story. Felice come quando ballavo Gimme Song. Felice come quando chiedevo 100 lire a Virgilio. Felice come quando alle 3 del pomeriggio d'agosto comprava il cono da 50 e crema e limone da Guido. Felice come quando arriva Dick, il cane di Ciccio e Cocomeraro, e saltavamo sulle macchine parcheggiate. Felice come quando facevo il bagno il sabato sera e lasciavo l'acqua nera nella vasca. Felice come quando mi addormentavo felice. Felice come quando a Natale io credevo a Babbo Natale. Bravo! Passerei la parola. Lascio la parola a un amico mio, a una mia amica. Poetessa Cristina Minucci. Salvata dal Natale, compressa all'interno di un osso di pollo, concordai con me stessa che si stava strettini. Presi così due confortanti calzini ed aspettai con sollievo il calore che danno. Ma non basta con la pasta, noi vogliamo la minestra. Essendo libera da soggezioni e tradizioni sociali, riesco a liberarmi anche dall'osso che mi conteneva esasperatamente con tanta durezza. Libera dall'osso, mi prese subito un collasso. Mi resi conto purtroppo con sagacia elementare che fuori era Natale. Di dolore urlai baritonale, ma non basta con la minestra, rivogliamo la pasta. Mi compressi di nuovo all'interno dell'osso di pollo e concordai con me stessa che non si stava poi tanto male, salvandomi così dal Santo Natale. Mossa. Nel giorno di Natale, se nevica vomito, se non nevica vomito, se piove vomito, se non piove vomito, se c'è sole vomito, se il tempo è così vomito, se il tempo è né bello né brutto e metto un rutto e poi vomito, ma più che una questione meteorologica con catastrofica catatonia, in genere a Natale io vomito e basta. Brava. Leggerò un'altra dell'anno scorso. Controllo. Letterina urgente sotto il piatto del pasto natalizio a mia madre. Approfitto di questo giorno per scriverti due righe. Approfitto della tua bontà. Oggi che nasce Gesù, confido nel tuo amore materno e chiedo venia. Mamma, cara mamma, ricordi quando ero piccolina con gli attacchi di mal di pancia fluente la mattina? Quando in bagno tu insensibilmente con amore mi accudivi per spedirmi a scuola ad imparare a formarmi, donna istruita e sicura diventare, ed io buttandomi ai tuoi piedi, invocando... Con amore materno, mi poggiavi le calde labbra sulla mia fronte fredda, mi guardavi con occhio poliziotto e mi dicevi tutto d'un botto: al culetto ce l'hai la febbre, cara, vai, vai a scuola. Buttando così quella povera bimba divinita in pasto agli squali. Ebbene, mammina, tutt'oggi quando mi sveglio la mattina ho quegli stessi sintomi di allora, ma oggi, come sai, vivo da sola. E allora me la canto e me la suono. Mi do malata se da lontano odo un tuono, se ho un estro, se mi vedo un mostro, se ho un bubone giallo e rosso. Per questo, mamma, ti prego, ti faccio una preghiera. Poggia le tue calde labbra sulla mia fronte fredda e dimmi per favore. Vieni presto prima che mi licenziano. Grazie e tanti auguri. Sotto il prossimo. Dai, va. Secondo il genio. Acclamate, però qui sta andando su. Domenico. Caro Tom Cruise, meglio trombare oggi, perché domani? Scureggia fatta, di tutte le fragranze, la prediletta. E sul più bello, mentre lo fotto penso, creste di gallo? E questo è un vero haiku invece. Estate calda, d'essere inculata, una gran voglia. Monte Caprino, colli, colline, cazzi, tutti in oscuro. Questo è un haiku metafisico. Sarà importante ai fini dell'universo quel cazzo moscio. Questo per gli amanti. Lo trovo strano che d'improvviso io mi gratirano. Non c'è cremenza, l'eiaculazione Ecox, un'indecenza. C'è qualcos'altro di me oltre al culo, Bruce, che ti interessa? Sarei felice nell'arrostirli tutti, belli e brutti. Dormo da sola, perché voglio sognare e scureggiare. Questo è mai convivo tra gli amanti e il Natale, chissà. Sfortuna volle, il pacco che vedevo erano palle. E non è Natale. Semplicemente la notte di Natale mi sento male. Perché di grazia la verga natalizia non fa notizia? Il pargoletto forse vi parla strano, ma ce l'ha dritto. Siete malvagi, accoppateli bene i tre re magi. Bene farete se vi sperma il cosmo cosparserete. Una d'attualità. La mucca pazza. Non c'entra nulla, però che bella mazza. E per finire quest'anno giubilare, meglio cagare. C'era un altro, l'ultimo haiku di Capodanno. Haiku di Capodanno. Voglia il Dio che nell'anno venturo fottersi possa. Mentre stappo una bottiglia di astigancia, rincorro il postino che vuole la mancia. Quel bastardo tutto l'anno non si vede mai. Ora batte cassa e si incazza se non gliela dai. Odo un dolce suono provenir da lontano. Ecco lo zampognaro con lo strumento in mano. Lo raggiungo e subito gli dico: ehi zampognaro, scusa, quel cazzo di strumento è il cugino povero della cornamusa? E poi, perché stai vestito così? Mica è carnevale. Le pecorelle dove le lasciate? Sulla tangenziale? Arrivano quelli degli elenchi del telefono. Anche loro a chiedere soldi adesso. Venite, venite, che gli elenchi vecchi ve li tira appresso. Toh, guarda che si vede, un cretino vestito da Babbo Natale, che si fa le foto con i bambini. Mi avvicino sorridendo e gli grido: vai a lavorare, barbone! Di certo da me non li vedi i soldini. Ma a Natale dobbiamo essere tutti più buoni. Prendiamo Emilio Fede e latitiamolo con i panettoni. Bravo! Adesso vi beccate come tutti gli altri il racconto algido di Natale. Era la notte del 24 dicembre e Babbo Natale stava facendo le consegne quando all'improvviso apparve una cantante di colore con indosso una canotta di una nota squadra di basket americano, Whitney Houston Rockets. Babbo Natale le offrì un dono, una fiammante utilitaria con attore incorporato, la Harrison Ford Fiesta. Vedo che capite. Ma ecco che da dietro un gigantesco albero di Natale di 8 centimetri si fece largo un cowboy idrorepellente, Gore-Tex Wheeler, che cominciò a sparare alle rende di Babbo Natale. Non potendo più usare la slitta, ripiegò su un altro mezzo di trasporto, una console di videogiochi giardinetta, la PlayStation Wagon. A bordo del nuovo mezzo di locomozione si infilò in un camino e si ritrovò nel salotto di un'attrice italiana appassionata di canto a cappella, Francesca Neri per caso. Vedendo Santa Claus scoppiò in un'imbarazzante risata e morì per la seconda volta. Tutti gli alberi di Natale della contea fecero indigestione di una strana mistura a base di mais soffiato e cantante rock, Liggy Popcorn. Non potendo ricevere regali di un certo prestigio, tutti gli abitanti del pianeta Grom andarono al concerto del piccolo uccellino portoricano, il Ricky Martin pescatore. Fu lì che tutti i marinai poterono gustare il nuovo panino farcito al papero, il McDonald's Duck. E mentre scoccava la mezzanotte e i bambini di tutto il mondo cominciavano a scartare i doni, anche l'inguardabile aveva il suo bel da fare. Le fenici si alzarono in piedi per vedere meglio l'arrivo della tigre della Malesia fusa con la sorella del presidente dell'Inter, Gabir Desi Morati. Care piccole formicine mie, tanti auguri e Babbo Natale non esiste. Concludo con il classico del Natale: regalami un orologio senza ingranaggi per non dover mai guardare l'ora, regalami una penna senza inchiostro per non dover mai riscriverti, regalami un libro senza pagine per non leggere mai senza di te, regalami degli occhiali senza lenti per non vedere null'altro che te, regalami un telefono senza cornetta per non dover mai risponderti, regalami un sorriso, Drupi. Regalami una padella senza manico, tanto di manico c'hai già questo. Regalami un acquario senza pesci, tanto come sopra. Regalami una sega, oppure tirami. Regalamela. Non vedevo. calibrato. Hai visto che forte non calibrato? Sì, farei una citazione. Ah, no. Ma no, Marzia, farei una citazione. Ma hai rotto le me lo dà sui denti. Dai, su tutto questo ti ricordi che hai finito? Eh? Sì, ma io ho finito. Allora, non ho poesia natalizia, da un pesterino che mi venne in mente l'ultima volta, l'ultimo reading del signor natalizio, dedicato a tutte le donne. Babbo Natale, portami un vibratore, io ti scongiuro. Poi leggerò la poesia. Allora, leggiamo le poesie che ho scritto, le ho modificate per l'occasione, per le natalizie. Allora, la teoria dell'estetica aristotelica natalizia. È Natale. Spesso mi chiedo se ti rendi conto del tagliare del tempo sulle piste per non vedenti. È Natale. Azzera la manopola del volume, dei prestiti e degli statini. Mi sembra che tu adesso debba ritrovare il nastro che teneva unite le socialità delle parti in causa, ovvero la sentenza e la crostata di lapis. Ah, quante ruote di scorta ci sono rimaste. Ah, ho la serie natalizia, ne dico un paio ora. Viaggio natalizio a Sora. A Sora. È Natale. Ci siamo cascati di nuovo, non abbiamo spiccato i buchi dell'umana perversione. Sicuramente ci vuole un colpo d'occhio per zavorrare tutte le bottiglie di conserva. Mi capo alle mamme Natale, le donne morte natalizie. No, le dico, l'ho detto anche l'altra volta, le dico perché è dedicata a Ciccioni, come presente. A Natale ne muoiono di più, qual è? Sì, beh, sai, questo. Allora, le donne morte natalizie. È Natale. Sono fresche d'estate, sono rilassate, sono flemmatiche. Sono nichiliste e acconsentono sempre. Puoi averne tante tutte insieme. Non entrano mai in competizione tra di loro. Non fanno la pipì, non fanno la pupù. Non vanno su internet, non sparlano. Non vanno alle mostre, non sono sciampiste. Non sono vetriniste. Non le rimorchi a del corso, non si bucano. Non urlano di dolore. Non fanno finta di godere, non ti criticano il vestire. Non ti costringono a cercare lavoro. È Natale. Non prendono la pillola, non vogliono il preservativo, non rimarranno mai incinte, non ti piantano le unghie nella schiena, quando le baci non aprono mai gli occhi, non vogliono fiori, non vogliono cioccolatini, ne puoi cambiare una settimana, dovresti cambiarne una settimana. Sono indifferenti alla coprofilia, se gli urini addosso durano di più, se ti piace la pesca ti saranno di grande aiuto, non perdono mai capelli, anzi, ci stanno con tutti, non sono modaiole, non guardano beautiful, non gli piace il mare, amano la montagna, hanno la vulva, cosa è larga, puoi scopargli la bocca e sentire il doppio buco. E hanno i muscoli dell'ano rilassatissimi. È Natale. Ora una poesia dedicata a un tipico ingrediente del panettone, il cappero natalizio. L'ho scritta nell'88, avevo 14 anni. Allora, da scontare, strage. Allora, coltivando felice il buon fiore, questo è chiasmo è questo. Li spella contento per due ore, insieme al prezzemolo ci fa il pesto. Il pomodoro, leon San Marzano, la farina da sola, la mistizza. Le mozzarelle vengono da Milano e nel forno ci metto bella pizza. L'è già sul tavolo la tovaglia, il padre contento è già seduto, nel chiedar piatto par che gli graglia. Si può dire è vero anche cappero, nel digestione è in vero perduto, perciò bel bello fiore tra l'allero. Bravo. Assassino, grande. Dov'è? L'ultima, poi così il libro, che oggi sta un po' male. Anche noi. Anzi, per te, anzi, mesi. Vorrei vomitare, però non ho cenato, per cui ci sarebbero solo succhi gastrici, aspirine, magnesio. Ok. Apri il tuo cuore, Natalizia, si chiama. È Natale. Apri il tuo cuore all'orsetto lavatore, ad un camion di le ore, all'assetto posteriore. Apri il tuo cuore al giudizio cautelare, allo sghembo sprintore, alla disca formattare. Apri il tuo cuore, smetti di urinare, comincia a defecare, per nel buio incatenare. Apri il tuo cuore all'arte di ammazzare, ad un bel gruppo di zore, alla figlia del dottore. Apri il tuo cuore invece di chiamare, apri il tuo cuore alla cura canalare, distilla un liquore con le dita delle suore, apri il tuo cuore riempilo di sperma. Grazie. È Natale, non l'avevo ancora riconosciuto. È Natale, pensa, non l'avevo riconosciuto. Tutto ciò mi preoccupa, sarà la memoria. Chi mi frega tanto non lo saluto. Mi avrà riconosciuto? Ma che devo dire? Se mi riconosce, non lo saluto. Magari faccio finta di essere straniero, gli dirò, no, no, guarda, sono il fratello gemello. Perché devo ridere così tutte le volte che esco incontro qualcuno che mi dice qualcosa? Ma che serve dire qualcosa se qualcuno lo incontro solo se esco di casa? È Natale, io non lo riconosco più. Che vuol dire? Che è diverso? Sarà invecchiato? Devo sfuggire dalle sue tensioni, mi guarda. Che vuol dire? Che vuol dire? Se mi parla io non mi rispondo, anzi gli dico, non mi toccare, capito? È Natale, miei cari, e siamo tutti quanti felici di esserci ancora. È Natale, miei cari, e siamo tutti incuriositi dal fatto di esserci ancora. Sì. Rispecchia la mia attuale sessualità, perché poi devo girare così e ho dei problemi. Dunque, riflesso dal vetro della finestra, emergono in me tanti sottili desideri. È Natale e mi ergo ritto, non batter di mani dicendo, è Natale, allora dica. Corro velocemente alla finestra e la vedo. È lì, lenta, curiosa, e un'alleata fedele del cielo. Questo mi fa riflettere sul peso che ha la mia esistenza, in questo contesto imbarazzante di un uomo che alle porte di una prossima mezza età si chiede, dove cazzo ho messo gli occhiali? Oggi sono molto felice, mi sento stranamente bene, ho deciso di essere più buono e più attento, ma intanto la neve scende, sembra quasi nella mia stanza, sembra che cada dal soffitto, ma no, è solo un suggestivo effetto, a Natale tutto diventa come il presepe, ci si irrigidiscono gli arti e le gambe si pietrificano, le giornate sono corte apposta. La neve cade ancora, sono veramente allegro in questo posto. La neve scende anche sulle mie spalle. A questo punto mi chiedo, ma è la neve? No, è la mia forma. Grazie. Inquietante. l'ultima e me ne vado. Pulati di simio cospite, inneggianti cosmotibie rime tet sobitebuli insetabit, ove cose sembrano rose, ove rose dubbe rispose. Cari Iliadi di nuovi spazi, manovellati ix servo, risveglia il cuore imbrandellato. Presevoli cospite, bricolanti in tacit fusi, maniglie disperse in sughi putriti, radugli veicolati in salimandi. È vero, mio cospolita, tu lassisci in germinali unghie. Mio coro ristretto da osellanti maniglie ivet, colminato su, piccole e brisevoli cospite, che ormai cospite più non siete, grazie. Triste, Bravo Domenico. Fallo per noi. Parte la luce. Non ci dare chi non c'è più. Posso dire una cosa che non c'entra niente. Ogni volta che chiamo quell'uomo gli dico, guarda, c'è una novità, lo sai che dice lui? È morto Pelletti? Allora, io sono una mattina di Natale, ma vengo per l'ultima, così faccio più bello. Grazie. Adesso facciamo una specie di preghiera. Spero che voi siate sintonizzati bene, che voglio evocare veramente... Il microfono è all'occhio. È una preghiera questa, sto tentando di evocare un po' la spiritualità che è in voi. Non so quanto sia natalizia, però è una preghiera. La testa del gatto. Tappiamo il tuo pubblico, lo fa. Dopo il taglio sarà. Se state buoni, zio, le farete? La testa del gatto, zio, facci vedere la testa del gatto! Perché lo vedi? Non è l'occhio! Che l'occhio, ma dai, non diciamo le figlie! Fate silenzio! Parliamo quel microfono, non sta mettendo la testa! State buoni? Gimo. Giamme, dai, Giamme. Vedo che ha stimolato la nostra spirito. Zio, mi fai vedere? La testa del gatto. Zio, facci vedere la testa del gatto. No, è troppo banale. Cioè, state buoni? Pedofilo. Dio, mi fa vedere? La testa del gatto! Passa nel froste. No! Adesso io dico, non voglio sentire... No, prima di parlare devi far dire. Non voglio sentire che è il Frost e spiegami che è il Frost. No, non lo voglio sentire. No, il Frost non lo beccate così. È un valore. Tu hai il Frost, devi dare un valore irrazionale. Ma dice che è il gatto. Zio, che vuol dire zio? C'è già il fatto che voi siete stati resi partecipi di questa parola, già dovreste essere contenti. Vale perché ha conquistato i marziani una volta. Bravo! Ci fanno sapere che Babbo Natale ha conquistato i marziani in un giorno. E allora rientra in tutta una catena di Sant'Antonio e muore. Ti collegiamo. Vai Romeo. Sì, sempre ricollegandosi a questa cosa di marziani però. Perché poi magari mi sfugge. Vabbè, dai. Voce. Microfono. Voce. Cappotto. Fila con tutti i moschettieri. Però ti è collegato sempre a quella cosa di Babbo Natale che conquista i marziani. Poi non vorrei che voi fraintendete le cose. Ma marziani che vuol dire? Non la fraintenderemo. Ok, mi raccomando. Poi io ci rimango male. L'assalto delle pupone omicidi. L'attacco dei granchi giganti. L'attacco della donna alta 50 piedi. Babbo Natale conquista i marziani. Le barbare ninfomani. La bestia della notte gialla. I pagliacci assassini dallo spazio profondo. Le creature dal cervello atomico. Le diavolesse su ruote. La donna pantera del Congo. La donna vespa. Le donne del pianeta preistorico. Le donne gatto della luna. Le donne gatto selvaggio. Le donne selvagge di Bongo. Le donne vichinghe e il serpente marino. Il dottore pazzo dell'isola di sangue. Il fantasma dal bikini invisibile. La figlia dell'infernale pipistrello. Il freak succhi a sangue. I trifini. Le giovani cannibali in topless. Gli Hells Angels sanguinari. Le incredibili strane creature che smisero di vivere e divennero metri trusi. L'infernale ragazza di Marte. L'invasione dei nani giganti. Jesse James contro la figlia di Frankenstein. Le lesbiche vampire. Cantrupe su ruote. Il licantropo nel dormitorio femminile. La lupa di Londra. Prima pagina. No. Dai. La maledizione della creatura della palude. I maniaci inceneritori nell'inferno dei dinosauri. I mangiatori di donne. I mangiatori di feccia. Amanti di omicidio. I mostri rovinano il pigiama pardo. Povero pigiama pardo. Il mostro da un milione di occhi. Il mostro dalla galassia 27. I nani venuti dallo spazio invadono Porto Rico. Non l'hai detta mai un punto. Perché è un errore. Devo dire che mi sono corretto oggi e ho fatto bene, ne farò tesoro. La notte della donna cobra. Le orge dei morti. Veramente non è più serio, più di lì. L'ho visto. Marcello, tu lo possiedi, non far finta di non sapere. Non far finta di non sapere. Scemo, ho detto, vedi, due, tre, quattro, giù. Marcello. L'orrido demone solare. L'orrore dei mostri di sangue. La poesia canadese contro gli invasori atomici. Le pollastrelle e il motorino nella città dei bicciulli. I pomodori assassini. Il rabbioso pianeta rosso. facce da morte. I sabici di Satana. Sangue sottigianti. Le schiave da oltre l'infinito. Il selvaggio mondo della donna pipistrelle. Lo strangolatore di Hollywood e la squartatrice dei vicoli. Però sono sempre più sicuro che era invece lo strangolatore di Hollywood, punto. Non lo controllare. Lo strano mondo del pianeta X. Quindi non è il caso di citare Il ritorno del Padrino Assassino, perché è un film italiano, quindi non può rientrare in questa linea. No. Ma chi è? Di Lucio Fulci? No, Lucio Fulci. Vabbè, a Natale siamo tutti. Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, quest'anno alla vigilia userete lampi e tuoni. Quindi giù dal cammino, in mezzo a strenne e dischi, si calerà affamato il buon Santa Claus Kinski. Niente più saporelli, neppur cinzano asti. Se siete buoni e tanto, voi sarete i fieri pasti. Oh, sangue e carne umana, rendon brillante il dente, fan lungi e bei i capelli, l'augel rendon potente. Dillo al vinchio, a Happy Metal, e dillo pure a Oriente. Per ottenersi tanto mangerei Maria le ventre. Appunto. Puoi farne stuzzichini in vero assai squisiti. Ad esempio un vassoio di bei lini incarniti. Quindi, giocando a tombola, invece che i fagioli, avremo le adenoidi del marcio fascicoli. Se ti portano sotto il vischio, dolci baci non negare, pronto sia ad asportare la zona mascellare. Sangue e carne di Cristo, il prete previdente, lo offrirà direttamente dal corpo di un pezzente. Così sia, e la Madonna morda il figlio appena nato, e morda pure il diavolo un glande incappucciato. Dici che ho finito, basta, troppe poche bestemmie, cazzi che l'altro, preparati Domenico, preparati la quinta generazione, la quinta generazione non è giusto, no, la quinta generazione, no, l'ottava, la nona generazione. Vabbè, ecco, questa qui perché finalmente l'illustrissima poetessa Lorella May ha scoperto l'identità di quest'uomo, aspetta, e credo che ne sta godendo, quindi ovviamente sa chi è dedicato a questa poesia. È lui, sta parlando di lui. Dello zoccolo. Eh già, e adesso gliela dedico. Quando veniva a sentire queste poesie faceva finta di apprezzare, invece lui soffriva. Comunque io... Cioè, no, no, pure a noi, era una infamia. Di offrire. E comunque io te la tengo quel lì. Io non gli voglio male. Quello che hai detto al collo. Andate la zia a casa, no? Beh, ma che vuoi, dai? Dai, è un punto di intimità. Che pigri te? Colui che ha i denti al collo è il figlio segreto dell'uomo in ammollo. Colui che ha i denti al collo ha sempre con sé una marca da bollo. Colui che ha i denti al collo non mangia mai la pelle del pollo. Colui che ha i denti al collo al ristorante ordina il midollo. Colui che ha i denti al collo ha un topolino di nome Apollo. Colui che ha i denti al collo ha la lingua gialla e il naso frollo. Colui che ha i denti al collo ieri in borsa ha subito un gran crollo. Colui che ha i denti al collo c'ha pisello mollo mollo. Però è una brava persona. Prepara il mio mezzo. Che preparo? È così, sono una preparati. È fuori con te. È il mio figlio. Bravo, perché? Io ho un po' paura perché ho un difetto che ogni tanto mi incrocio con le parole, quindi non ci fate caso. No, io perché sono un poeta, non so proprio un poeta, un poeta. Ma ammazza, non ride nessuno. Infatti io non faccio il cambia col fumo. Domenico, vuoi una cosa? No, scusa Stefano. No, sarà importante. Prepara il mio mento. Oh, sbrigate. Vieni, sì. Oggi a vedere. Allora, cioè, io ci avrei bisogno di due partners. Partners, maschi, che sono i soliti Stefano Campiani e Eugenio Salutari, per questa poesia sul Natale. Ma io arrivo ai maschi. Non avevo rocio. Ma no, questa è una poesia dedicata a... Marcello, ma Babbo Natale è prossimo. Oh, grazie. Ma è a casa, Stefano? Sì, che è. Allora, questa poesia si intitola Quel bravo babbo, no, quel bravo babbo Natale. Che cazzo è? Amico. Perché non me la ricordo a memoria. Aspetta, se non qua. Però porta la striga. Sì, però cambiate una volta. Babbo Natale. Parlo che tu sei Babbo Natale. Aspetta, ricomincio. Babbo Natale. Se ti con te Babbo Natale. Se. Vieni qua, Babbo Natale, vieni. Ho bevi qualcosa a Babbo Natale. Offrite qualcosa a Babbo Natale. Vieni qua. Babbo Natale! Poco fa stavo festeggiando il Natale con tutta la famiglia e i miei picciotti. Tutti ci avevano il regalo sotto l'albero e io niente. Babbo Natale! Sì, dico a te, Babbo Natale! Perché non mi ha portato il regalo, Babbo Natale? Babbo Natale, sto parlando con te, Babbo Natale! Forse mi ce l'avevo buffo, ti faccio ridere! Fottuto Babbo Natale! Tu sei tutte chiacchiere e distintivo! Babbo Natale, sei tutte chiacchiere e distintivo! Io non ho fatto niente! Babbo Natale! Saluta la Befana, Viva male! Allora, adesso questa un applauso. Allora. Questa è la poesia che mi hai citato pure l'altra volta sul Natale. Poi non so nuove. Allora, il Natale con internet. La notte di Natale accendo il mio computer, mi collego su internet e faccio sesso virtuale. La notte di Natale mi collego su internet, faccio sesso virtuale e accendo il mio computer. La notte di Natale faccio sesso virtuale, accendo il mio computer e mi collego su internet. La notte di Natale accendo il sesso virtuale, mi collego sul computer e faccio l'internet. La notte sesso virtuale, accendo l'internet, mi collego sul Natale e faccio il mio computer. La notte di internet accendo il Natale, mi collego sul sesso virtuale e faccio il mio computer. La notte del computer accendo il sesso Natale, mi collego sul virtuale e faccio il mio internet. La notte del sesso faccio il Natale virtuale, mi collego sul computer e accendo internet. Del faccio virtuale, Natale sul computer, internet accendo sesso, la notte collego di. Poi l'ultima, così non è... L'ultima. Ma io l'ho fatto ridere. Non è. Allora, questo si intitola Il Natale finisce male però accorciata, perché normalmente è lunga tipo 4-5 pagine. Io invece l'ho fatta per non rompervi le scatole, di una pagina sola. Se no, se volete quella da 4-5 pagine, basta che me lo dite. Però lei fa la minoranza, quindi non è, nessuno ha detto. Fai come fa la minoranza? Si fa così, la minoranza. Fai la minoranza, fai. Vabbè, volevo dire fa parte della minoranza, scusate. Allora. C'è la minoranza, vedo qua. Fa la minoranza. Il Natale finisce male. Il Natale finisce male se ti trovi all'ospedale. Il Natale può far tifo se ti prendi colera e tifo. Il Natale non va bene se ti viene mozzato il pene. Il Natale è senza amore se ti trovano un tumore. Il Natale è una brutta festa se ti vomitano in testa. A Natale non attacca se ti tirano la cacca. A Natale non c'è il dopo se nell'anno ti infilano un topo. Natale può essere fatale se ti cade il genitale. Il Natale diventa un conflitto se dal morbo di Parkinson sei afflitto. A Natale non è una bella giornata se ti muore la tua fidanzata. A Natale se vai a messa a mezzanotte troverai un maniaco che ti ammazzerà di corpo. Natale diventa inquietante se mentre vai in discoteca ti cade addosso un altoparlante. A Natale vedrai tante stelle se finisci su una sedia a rotelle. Non è che, vabbè, non c'è un significato. Natale non è più un gaudio se dalle orecchie perdi l'audio. A Natale è una giornataccia se ti viene l'herpes in faccia. Dopo Natale non andrai più in ufficio se ti sparano addosso un fuoco d'artificio. A Natale se senti una zampogna vedrai uscire i topi dalla fogna. È Natale che ti assilla se senti tu scendi dalle stelle cantata da Claudio Villa. A Natale è meglio che stai cauto se ti scoppia in mano un rauto. A Natale passi gioia e dolori se invece del regalo ti tirano i pomodori. Adesso. Il Natale è un giorno nefasto se mangi il panettone guasto. A Natale si riempiono le stalle e tu sul va all'albero metti le tue palle. Insomma, il Natale finisce male e ricorda, fratello, che prima di preparare l'albero con tutte le sue palle, se hai ascoltato quanto ho detto è meglio che ti gratti la testa. Domenico, preparati. Domenico. Che volete che facciamo? La canzone finale? Allora, preparatevi, perché allora facciamo così, dai, poeti, a me, facciamo una per uno e poi dopo tutti in coro e la canzone italiana. Vediamo. Vabbè. Ma che devo fare? Quella contro di te piano piano piano. Ma io qua faccio solo ho imitato la mia parola preferita. Mi massacrerò. Allora, questa poesia normalmente viene detta dopo o contro Tecnociccio, non saprei, che legge tutta quella cosa meravigliosa sui titoli assolutamente veritieri. Io ne ho fatta una sui titoli assolutamente falsi. Il problema è che lui di solito strilla, e strillo pure io, ora è andato piano, vediamo un po'. Tecnociccio contro i pirati improbabili. Mi metto seduto. Un po' di tre quarti così. Fate finta che sono Tecnociccio. Tecnociccio contro il vituperatore automatico. Il mistero delle righe a quadretti. Può durare sei ore. La famiglia, ecco. Ricomincio perché mi viene bene. Mi posso stare qua fino al 25, ci ho cazzo da fare. Il cerco piteco invisibile contro il bisonte trasparente. Tecnociccio contro i tafferugli acrobatici. Il mistero del cognato artefatto. Il triangolo dai cinque lati di fuoco. Tecnociccio contro il pigiama inventato. Il mistero dei misteri risolti. La casa delle Bertucce inverosimili. Il mistero del mostro stupendo. Tecnociccio contro il mugnaio imbestialito. Il peperone che pizzica contro la cipolla che mozzica. Tecnociccio colpisce ancora. Ancora colpisce Tecnociccio. L'affannosa odissea del salvadanaio puzzolente. Il ritorno dei conigli apparenti. Gli errori del pescivendolo che si credeva morto ma era solo Mandarecchi. Anche lui ha detto una così. Le ultime grida del capitano muto. Tecnociccio contro il mancino con due mani destre. Canta, col capo scritto, la regina dell'impero muto. La vendetta dei chilometri cortissimi. La minaccia del marasma ordinato. E infine Tecnociccio contro gli invasori spaziosi. Grazie. Questa è dedicata a... Ma non era una sola? Era, non si è stato. Vabbè, chi viene? Chi c'è? Stefano, dai. Procopio! Procopio! A furor di popolo me ne vado a fanculo. Ma poi c'è? Basta, ma devo chiedere? Basta, famo dare! Tutta quella cosa del napoletano. Li facciamo? Per voi li facciamo? Andiamo in casa con Piero. Però devi di giamme, Questa è autobiografica. Monoscopica, microscopica della vita. Appena nato non avevo nessuna età. Ah, leggerò anche le note perché alcune cose se non vi spiego che cosa è. C'è lei qua. Appena nato non avevo nessuna età. Dopo due anni ne avevo due. Aspettai un lustro e arrivai ai sette. Un'età importante, i sette. Mi ricordo il mio primo ghiacciolo. Il mio primo bidet incontrollato, pulizia dei genitali senza l'intervento di terze persone. Dopo sette anni arrivai ai 15. Fumero della mia prima candela sostituito al mio Len, motorino del poeta posseduto e poi sottratto illecitamente. ed è il mio primo bagno senza ciambella. Dopo 10 anni arrivai ai 25, anni oscuri che determinarono tutto l'andamento di quell'età, e cioè cambiarono l'itinerario del 907, autobus ATAC che passa nel quartiere del Poeta, prolungandolo sino alla Storta, località tra la Cassia e la Giustiniana, strade consolari. Oggi ne ho 29, cioè bugia. Quando ho scritta, oggi ne ho 39 e sono molto contento. Finita, scusate. Ma... Vai, chi c'era? Tutto il segno. Domenico, preparati che tocca. Domenico, dai, c'è, cioè, sai. Cristina, no, Cristina, sta a te. Così, da Cristina. Dai, dai. Vediamo la signora Bebè. Mi dai la 24 ore. Dai, mi cucci, dai, mi cucci. C'è una cosa brutta, io la voglio vedere, una foto di domenica, c'è una cosa brutta e frontale, riclamo, didattico. Un poeta come te non devo diventare capito di frontale, è un materialista. Ma noi dobbiamo stare qui, cioè, dobbiamo recuperarci perché stare un momento. Se va buttato giù. Feste natalizie. Io come c'è? Non lo so. Io vi amo. Stasera siete più belli. Quanto bene che... No. Proviamo. Stasera siete più belli. Vi voglio bene come fratelli. Quanto bene che vi voglio questa sera che vi guardo meglio. Forse è l'aria natalizia che stasera ci delizia. Sta nascendo il bambinello concepito senza pisello. Natale è... Natale. Natale è sempre Natale. A Natale lo scherzo non vale, vale solo a Carnevale. A Natale c'è l'alberello e c'è pure il poverello. Natale è una canzone d'amore, è un pezzo di cuore, è uno strano sacramento che ti stende al pavimento. Io vi amo. Che quasi quasi mi commuovo. Sta arrivando l'anno nuovo, tutti in cerca disperata. Dove passiamo la nottata? Ma quest'anno sono buona, non spendo i soldi in coca. Mi devolvo in beneficenza e mi chiudo nella credenza. 1, 2, 3, è il Natale che ti meriti te. 4, 5, 6, a Capodanno dove vai se la dritta non ce l'hai? Cognato. Sono tremendo. Ci vuol coraggio, ma qualche volta scopo mentre scureggio. Quello che ho cognato adesso invece è riferito a una storia di Domenico che è sui disgustisti. I disgustisti, Domenico non dice, sono onanisti. Onanisti o con la oda? Son onanisti. Io dico che cioè, non sono. È la sono anche onanisti l'anno. Dai, c'è, sta per te. Vai domani. Fui profeta, gli scrissi la poesia sulla vincitrice del Grande Fratello, però non la dico. Volevo solo complimentarmi con me stesso. La poesia dice una grossa verità. Non sono il titolo, però dico un'altra, solo una citazione. A Cristina del Grande Fratello gli piace il pisello. Sogno rotonde forme di donna, sogno la mancia che mi dava mia nonna, sogno il biscottino Melin a colazione, sogno la carta moschicida marrone, sogno lo sceneggiato alla freccia nera, sogno un tozzico che si fa una pera, sogno Giampiero Galeazzi in tutù, sogno scatolette di mentine tabù, sogno il cappello della loggia del leopardo, sogno Valerio Merola che si spinge l'azzardo, sogno le bottiglie di cetrata Tassoni, sogno i trenini Lima e tutti i vagoni, sogno Nadia Rinaldi in perizoma, sogno lo scudetto alla magica Roma, sogno il chinotto neri e la spuma, sogno il cantante e il puma, sogno Luis Miguel a Sanremo, sogno Amanda Miro e Tremo, sogno Emilio Fede vestito sadomaso, sogno Silvio che lo frusta sul naso, sogno le tepa e le make-up, sogno Lisci Lip e Felliciap, sogno la buonissima carne montana, sogno Jessica Rizzo in sottana, sogno il dindondero l'uomino a mollo, sogno Sgarbi nella cacca fino al collo, sogno Raffaella Carrà e il Tuca Tuca, sogno la Marocora, il Cambusa One e la Sambuca, sogno il 18 Isola Bella e l'amaro medicinale Giuliani, sogno il Circo Viales con i babbuini nani, sogno Cino Tortorella con la calzamaglia e il pacco, sogno Socrate e i suoi colpi di tacco, sogno Cristina D'Avena che canta il valzer del moscerino, sogno di torturare Fiorello e Fiorellino, sogno le feste con il gioco della bottiglia, sogno Antoni Noghi con la conchiglia, sogno i raudi gettati dentro un portone, sogno proprio un bello guadagno. Questa è una poesia che vorrei leggervi con un attimo di rilassamento, mi avete già messo un po' d'ansia, perché... Domenico? Scusami. No, vi spiego perché tutto questo assembramento sul palco, briga, di una spiega di un cazzo. Allora io me la prendo comoda, me ne leggo una, che poi dopo vi leggerò un'altra volta. Si chiama Asetta Elituni Lad Asserpo Allo Allad Ita Cla Inichafi. Questo era solo il titolo. Ap Al Isap Il Apir Al Apird Al Is Elorab Emitlut El Etseruk Noruf Etagnar Etig Non non mi correggere che già che I facchini falciati dalla polla oppressa dall'inutile attesa. Mi passi la trippa? La trippa? Sì, la trippa. Furono queste le ultime parole. Calci, pugni sbagliate e non son certo carezze delicate. Grazie. In effetti è eliminazione diretta. Nessuno resiste fino alla fine, è matematico. Scientificamente provato. Sei sbadito. Cosa si è messo a picciare? Non è carino che voi. Comunque non preferisco non leggere una poesia ma citare un aneddoto. Tipo? 3 anni fa, in periodo natalizio, mi è capitato di fare un numero che faccio spesso, direi. No, tipo un numero di vermicino. Insomma, ho fatto questo numero e non ho trovato una persona che abbia in quella casa. Invece ho trovato una cosa strana che si chiama segreteria telefonica. Adesso vi cito che cosa diceva questa segreteria telefonica. Cita. Allora, che non lo so fare, è difficile. Cita. Diceva così. Ennodato, c'è il messaggio da lui. Cioè, no, continua. Poi devi dire chi è. Io ho chiamato lui. E ho detto, telefonate che fa numero. Vabbè, vanno tutti a ridere. Allora poi incontriamo questa persona che è un poeta famoso, tanto che chi è assente, non ha ricevuto. Incontriamo questo poeta che oggi è assente, ha tutti a dire, ah figa, segreteria, cioè, dai, no? Era di più, no? Vecchio antiborghese, distruttivo, dai, hai avuto già giù. Dai, lì proprio uno la sente con la segreteria, si spara, gli evo. Ma lui la segreteria del notario. Dici, dai, la notifica. Oh, meno, lo scherzo. No, è la stessa. Quello, quell'uomo lì, per dare un messaggio di speranza, d'amore, Dai, chiamiamo Domenica. Dai, che non vedono l'ora che... Dai che sono Gebo, c'è proprio da andare via. Sperava, io non dico. Stanno tutti sulla porta. Io non ci sono. Vai, Marcello. Oh, no. E non trovo la poesia. Inventa. Inventa, io l'ho fatto. Non gli dare il calcio. Ah, sì. Devo fare sì. Devo uscire la poesia. Oh, hai distaccato la cosa. Piedino di prato. No, perché non vale, perché tutti quanti hanno parlato al microfono. C'è ragione. No, vabbè, no, ma sei rifiutato, sei staccato. Va bene, ci sono così, basta, vale. Ehi, Carlo Vettore, ehi, Carlo Vettore, ehi, Carlo Vettore, ehi, Carlo Vettore, ehi, Carlo Vettore, ehi, Carlo Vettore, ehi, Carlo Vettore. Bella, va bene la canzone, va bene, venuti marci, ma tu ti metti seduto laggiù, venuti su marci, prepara di domenica, facciamo tutti quanti sopra anche il fronte, vuol dire un'altra poesia, però visto la situazione dirò una frase anatomica. E palco a retto. Bella sta poesia. Ma che è un aiculo? È un aiculo, è un aiculo. Volete la canzone? Volete la canzone? Se è l'ultima cosa, sì. Se può avere andate, sì. Bravo, la fa. Franco, amici ascoltatori, vi presentiamo Franco Bertolini da Londra. Dai, dai, amico, Franco Bertolini dai, dei Villas. Adesso Franco Bertolini ci canterà una canzone. Franco, vieni a cantare. Franco, questa bella voce. Amici ascoltatori, è un onore per noi avere Bertolini nel palco. È un onore, è Bertolino. Bertolde. Si chiama Alberto Lione. Giorni felici. Dai, sì, dai, ragazzi, come chi può? Oh, giorni felici! Ma che è? Ma canta la casa! Ma no, sei nessuno la sa! Ah, nessuno la sa! Oh, giorni felici! Ma no! Dai, dai, Bertolde! Io così la giorni felici! Fammi andare avanti, se fa la moto Alice! La, ho pagato gli amici. Vabbè, cantati, dai. Mi inculo gli amici, ti fa cazzo. Dai, canta. Ah, devo cantare. Ma non mi piace la musica. Mi inculo. Ah, Luca, dammi una mano te. Luca. Che c'hai? Mi inculo amici, te prego la bici. Che cazzo dice? Quello che dico pure io. Ammazzo due attrici, non c'hai. Ma che sacrificio? Ma perché devo cantare da solo? Non è ancora. No, no, aspetta, mi piace. No, ti piace, vai, ok. Dai, perciò. O giorni peleleci, questa notte. No, hai cantato la frase. Ah! Lo stavo. Ah, ma che sacrifici, ho studiato i felici, ho giorni felici. Annuso le feci. Ma chi le fece? Non ti pure tu. Mi mangio, ma perché da solo, scusate, questo era un coro, ragazzi. Ma perché non faceva così? No, no, no, che gio... Ah, mi mangio due ceci, di là, ho giorni felici. Tanto questi fanno le cazzo. Oh, mortacci, oh, ci sono andati. Io stavo dicendo. Vabbè, hai fatto.